Corso basico di Kabbalah, parte 1, file audio 7. Lezione 6. Mi piace andare con te nelle profondità della vita, per andare sempre più in profondità. Ogni giorno tu devi andare sempre più in profondità dentro te stesso. Stai imparando da te stesso. Ogni lezione è divisa in due parti. Nella prima parte discuteremo il percorso, come venire più vicino al nostro adempimento. Nella seconda parte discuteremo della Kabbalah, l'albero della vita. Nella prima parte parleremo la fondazione spirituale della Kabbalah. Iniziamo a leggere questo manuale. Il primo articolo. E questo primo articolo è molto importante. Ogni articolo dà una nuova dimensione al tuo essere interiore. È scritto in un linguaggio ordinario, ma cosa è nascosto è enorme. Perciò leggi lentamente, parola per parola. Lascia penetrare ogni parola. Il primo articolo ci dice: non c'è nessuno altro accanto a lui. Discuteremo solo il testo di Yehuda Ashlag. Il significato di questa fondazione spirituale della Kabbalah è di purificare te stesso e ad aprire in te i kelim specifici e a chiudere altri. Quello che chiedo da te è che tu devi essere ricettivo così che la luce possa penetrarti e attraverso questa luce puoi venire a imparare come cambiare. Quelle finestre specifiche possono aprirsi e altre chiudersi. Come e quando tu arrivi alla realizzazione è solo nelle tue mani, con la via del tuo studio, con la via della tua consapevolezza. Tu puoi venire alla realizzazione. È già dentro di te. Il punto è: tu devi penetrare la tua comprensione, il tuo intelletto. In me è il desiderio che quella luce possa formarti. Quelle finestre particolari si apriranno. Apriranno. Scusi. Apriranno e altre saranno chiuse. Esiste solo una forza, la forza creatrice del creatore. E questa forza ha l'attributo di altruismo. E l'universo è riempito solo con questo attributo. È l'attributo del dare. Quello che stiamo andando a imparare è a fare è come venire in conformità con questa forza. Questa è la sua forza e egli splenderà su di noi. Questo è quello che facciamo nella Kabbalah. Abbiamo solo il desiderio per la ricezione. Riceverai tutto ciò di cui hai bisogno per venire alla tua realizzazione. Non c'è nessuno altro accanto a lui. C'è nessun altro accanto a lui. Significa che non c'è altra forza in questo mondo che è in opposizione a lui. Una forza, e noi sperimentiamo più di una forza. Perché? Perché è il suo desiderio. Il nome di questo metodo di correzione è: la mano sinistra spinge via e la mano destra attrae. La sinistra spinge via e la destra è la forza attrattiva. La parola kilim significa l'osservazione degli organi. Attraverso l'osservanza della luce possiamo venire alla correzione della mano sinistra. Significa trasformare l'attributo della mano sinistra nell'attributo della mano destra, e l'attributo della destra è l'attributo che appartiene al creatore, l'atto di dare. Questo è quello che dobbiamo fare: portare noi stessi in conformità con il suo attributo. Come? Aprire noi stessi per la sua forza. La sua forza è intorno a noi e nell'universo. È la forza che viene dall'alto, che brilla a noi. Quello che dobbiamo fare è aprire noi stessi per questa forza e portare noi stessi in conformità con questa forza. Il risultato sarà lo stesso per ognuno di noi: realizzazione. Nascosta in questa sola frase possiamo trovare un'enorme saggezza. Potrei parlare per giorni e giorni solo su questa frase: non c'è nessuno altro accanto a lui. Molte forze ci circondano e il Creatore ha fatto questo con un proposito. È suo desiderio che dovremmo sforzarci per raggiungere lui. È lo stesso come nel mondo materiale. Quando vuoi qualcosa e tu combatti per esso, lavori duro per quello, cosa accadrà? Il nostro duro lavoro, la nostra battaglia, lascia crescere la brama. Ciò che conta per questo mondo conta anche per il mondo spirituale. Più sforzo tu devi fare, più la bramosia cresce per il Creatore. In un certo senso, quando dobbiamo dare molto impegno, esso diventa più di valore. Questo è quello che noi chiamiamo nella Kabbalah una pietra d'inciampo. Nessuno può portarti alla tua realizzazione, ma il tuo proprio desiderio. Non c'è altra forza, devi crescerci, credere. No, non c'è altra forza, devi crederci. Credere in lui è unica forza. Certo che sei giusto all'inizio del sentiero. Quindi è difficile vedere che c'è solo una forza perché nella tua consapevolezza tu vedi diverse forze. Abbiamo molti desideri e ogni desiderio ci trascina in un certo posto. Ad esempio, il desiderio di potere ti dà l'intuizione che c'è potere in ogni forma. Ci sono anche poteri nell'universo che sperimentiamo come cattivi. Perché? Perché non abbiamo i giusti kilim, i giusti organi per la giusta consapevolezza. Il problema è che non possiamo vedere ancora il bene dietro il male. In un certo senso è solo una deviazione della nostra percezione, della nostra osservanza, finché non abbiamo accumulato la forza di guardare attraverso, che noi possiamo riconoscere questa unica forza. Il nostro primo compito è la nostra attribuzione, è di credere nell'unica forza. Attraverso questo, dall'alto chiuderanno finestre particolari. Non possiamo farlo da noi stessi. Non abbiamo il potere per elevarci nello spirituale. È una vergogna che la giusta intenzione di questa parola sia persa. Dobbiamo cercare di trovare il giusto significato della parola spirituale. E trovando la giusta intenzione, ogni cosa andrà bene. Ognuno di noi ha aspettative. Ognuno di noi vogliamo ricevere qualcosa. Presto tu attiverai una finestra particolare. Ad esempio, la finestra di non c'è nessuno altro accanto a lui. L'amore verrà giù. Tu devi solo aprire questa finestra per mezzo del tuo credo. C'è solo una finestra che lascia attraversare lo splendore della forza vivente. È la finestra di non c'è nessuno altro accanto a lui. Quindi, il primo passo in questo studio è lavora a te stesso. Dobbiamo imparare e accettare che c'è una unica forza. E per mezzo di questo tu crei un altro obiettivo. Altre finestre si aprono per altri desideri. Se noi evitiamo o trascuriamo questo, inganneremo noi stessi. La Kabbalah è un rimedio, ci sta aiutando. La Kabbalah aiuta l'uomo a dissolvere le sue contraddizioni e li sente mediante la sua fede. La forza lo porterà ad un livello superiore e poi le sue contraddizioni si dissolveranno. Ora può venire all'esperienza del bene esistente nel mondo. Il bene e il male sono due opposti. In ogni situazione vedrai il contrario. Il Creatore ha creato questo con proposito. Perché? Perché così ora puoi cambiare ed alzarti da te stesso. Solo per mezzo di una contraddizione puoi venire all'unità, salirai in un nuovo livello e in questo nuovo livello incontrerai di nuovo nuove contraddizioni con l'intenzione vieni alla sensazione di una nuova unione di questo livello. Passo dopo passo tu ascendi al tuo livello. Costruisci dentro di te la forza di venire sempre più in alto e solo allora tu hai la capacità e non solo la capacità, ma ora anche sei degno di dissolvere il nuovo polo apposto con l'intenzione di portarlo all'unità. Questo è il modo per crescere. Solo facendo questo lavoro dissolvi le contraddizioni andando oltre il tuo intelletto. Tu sai che è un processo senza fine. Questo processo finisce? Non ci è dato per rispondere a questa domanda. Mentre tu stai studiando la Kabbalah, il risultato sarà immediatamente visto in contraddizione con l'essere esterno. Ma qual è il risultato? Tu senti il polo opposto. E quando senti questo, tu devi sapere che è solo una carenza nella tua consapevolezza, nella tua osservanza. Non per il Creatore, egli è perfetto. Ed esso è il suo desiderio che verremo anche alla sua integrità. Non siamo più per molto bambini del Signore. Quei giorni se ne sono andati. Lui vuole che noi diventiamo suo figlio e figlie. Essere adulto. Solo in modo adulto possiamo lavorare alle nostre correzioni. La distanza tra il Creatore e te è così terribilmente lontana, ma tu puoi tornare a Lui. Tu hai un strumento così potente, credere. E attraverso il credere tu puoi fare te stesso integro. Avendo la fede, c'è solo una forza. Questo è il tuo potere curativo. Finché tu vedi e senti che c'è il male, tu vedi con i tuoi occhi diversi punti di forza. Tu sai che hai lavoro da fare. Questo è ciò che intendiamo con andando oltre la nostra comprensione, che non c'è nessun altro accanto a Lui. Solo avendo questa fede, questa forza ti aiuterà a sapere che non ci sono altre forze. Fino a quando tu sperimenti il male, esso significa solo che hai del lavoro da fare. Devi fare una correzione per osservare la giusta osservanza. Come puoi correggere te stesso pensando ai quattro comandamenti? Quando tu apri te stesso per qualcosa di diverso, per un'altra finestra, devi sapere che il rubinetto inizia a perdere. E ogni perdita è una perdita di energia. O, in altre parole, questa è una forma di succhiare potere al di fuori della tua consapevolezza. Tu senti solo queste forze quando c'è una mancanza nella tua osservanza. Lottare per un obiettivo particolare. Questo ti aiuterà a prevenire un'altra perdita di energia. In ognuno di noi ci sono osservazioni che non sono corrette. Finché qualcosa non è corretto, sei attaccato a una forza particolare e noi vediamo questa forza come il desiderio. Cos'è che succede quando mi connetto con altre forze e poi all'unica forza? Ciò che si vede sono altre finestre aperte, e attraverso questa finestra aperta c'è il succhiare via della nostra energia. E questo è quello che facciamo. È lo stesso con la nostra osservazione meccanica. Qui ci sono anche perdite. Quando fai qualcosa di cui non va bene, sei caduto a sinistra e le finestre si stanno aprendo da loro stesse, per cui la cattiva energia succhia in un certo modo la tua energia. Questa è la ragione perché tu non vedi la coscienza superiore, l'intera realtà. Ognuno di noi osserva secondo la sua propria osservanza. Tu devi tenere te stesso occupato con l'interno, con questa finestra particolare, così ora puoi rimanere vivo. La finestra che dobbiamo aprire è la finestra per la vita eterna. Non c'è altra forza accanto a lui. Quando trascuri questo principio, la vita ti imbroglierà. Apri questa finestra. Questo è il più forte credere. Hai solo bisogno di una finestra. Quindi sei qui per percorrere il sentiero, quello che ti porta a questa unica finestra. Non c'è altra forza oltre lui. Ma non è un compito facile. Questo è il processo di apprendimento che può essere doloroso. Io non mi occupo del tuo processo di apprendimento. Quello che faccio è darti indicazioni. Io ti mostro il percorso dell'uomo saggio che già ci aveva mostrato, ma il lavoro può essere fatto solo da te. La Kabbalah è una medicina molto forte, non magia. Non accettare mai cose che appartengono al mondo esterno. Vuoi andare avanti in un modo molto veloce? Allora non camminare con loro che sono attaccati all'esterno. Loro ti faranno assolutamente rallentare. Quando hai tempo per pensare a questa frase, non c'è nessun altro accanto a lui. Attraverso questa frase connetti te stesso con i tuoi occhi, con la tua lingua, il tuo cuore nel tuo Yesod. È l'ultima aria dei pensieri proibiti. Quest'ultima aria di Yesod può essere molto sottile. Per esempio, guardare la televisione o spettegolare sulle altre o avere cattivi pensieri su qualcuno. Eccetera, eccetera, eccetera. Tu potresti pensare che esso è un vivere innaturale secondo questi quattro comandamenti. E in un certo modo lo è. È sovrumano credere in questa unica forza. È sovrumano credere con i quattro comandamenti. Ma è possibile, per mezzo dei tuoi pensieri peccaminosi, sarai punito. Finestre particolari si apriranno e la tua energia scompare, e la conseguenza è che tu non vedi la totalità. Il tuo parlare con la lingua malvagia causa la perdita e tu non puoi vedere più la realtà. Perché? Non c'è accordo con la qualità del Creatore. Tu stai provocando poteri in te stesso in contraddizione ad altri, come due opposti. La può e deve essere unità e interezza. Il Creatore ti ama, perciò tu hai il polo opposto. Sei te che hai bene come amore e male dentro te. Quando c'è rabbia, tu apri la finestra del male, e quando ti senti bene, apri la finestra del bene. Ricorda il principio, conformità con l'attributo. Questa è unità, interezza. Ogni contraddizione ha la qualità a ritirare via la forza. Questo è il tuo lavoro. Cancella la contraddizione dentro te stesso e vieni all'integrità, all'unità. È il tuo processo, la tua crescita. Per esempio, il desiderio. Il desiderio non è un attributo del Creatore. Il suo attributo è di dare. E quando hai il desiderio di ricevere qualcosa, tu hai una contraddizione. Forse adesso farai meglio a capire il detto non desiderare. Correggi il desiderio e starai in equilibrio. Stai in contatto con la forza del Creatore, perché il Creatore è la forza del dare. Conoscenza riguardo la Kabbalah. Le lezioni sono divise in due parti. La prima parte riguarda la struttura del lavoro spirituale, nella seconda parte guardiamo alla struttura di come il Creatore ha creato il mondo. Questo è l'apprendimento della struttura dell'universo. Non pensare che sia qualcosa di scientifico. Questa struttura può e deve essere costruita personalmente in ogni persona. Niente esiste nel comune. Quello che esiste è anche nei minimi dettagli, nell'atomo, la molecola. Ci dà la conoscenza del tutto. Puoi confrontare questo con il DNA, Il DNA dell'uomo ci dice come e chi è la persona. È lo stesso nello spirituale. In te deve vivere la convinzione che tu puoi comprendere il Creatore, le sue qualità e l'apprendimento della struttura dell'universo la puoi esercitare. Portando l'universo dentro di te, è possibile per te venire all'esperienza dell'universo dentro di te. La prima parte riguarda la credenza. Questa è una parte molto difficile. Nella seconda parte iniziamo a conoscere la struttura e questa conoscenza ci dà forza e con questa forza rafforziamo la nostra fede, crediamo. È attraverso un più forte credo che possiamo approfondire la conoscenza, eccetera, quindi renderti ricevibile il più possibile. Questo è il modo per venire all'esperienza. Devi sentire, sperimentare lo spirituale. Deve crescere proprio come un embrione nel grembo della madre. Questo ci porterà alla rinascita. Le religioni parlano della vita dopo la morte, non della Kabbalah. Devi venire all'esperienza dell'interno in questa vita. Ha senso solo sentirlo in questa vita. Dobbiamo finire il lavoro durante questa vita e non nell'altra vita. Non dimenticarlo mai. Una persona che vuole spiegarti qualcosa ma non è abbastanza capace userà molte parole. Più comprendi e meno parole hai bisogno per spiegare. E noi siamo carenti della comprensione. Chiedi comprensione, la forza che può venire alla comprensione. È tutto riguardo al tuo atteggiamento, il tuo desiderio di comprensione. Questa è l'unica cosa che può aiutarti. Sei come un ospite nella terra dello spirituale. Ci deve essere dentro di te la brama per diventare noto con questa terra, per imparare questa terra. Con la via della Kabbalah possiamo venire a imparare la terra spirituale. L'avvento in essere dell'universo. Prima c'era solo luce, la luce riempiva ogni cosa e non c'era posto per la carenza. Solo la luce, niente di più prima che la creazione venisse all'esistenza. Solo la luce del Creatore, non c'era posto per la carenza della luce o qualsiasi cosa, solo una singolare luce intera. Questa è la sua essenza, è l'attributo dell'essenza, sua essenza. Dare un nome ad una cosa significa che siamo arrivati a un punto di comprensione. Quindi c'è solo una parola, essenza. Cosa era prima l'essenza? Noi non lo sappiamo. Quando la spiegazione è semplice, sai che è più vicino alla verità. Come ho detto prima, non cercare di arrivare alla comprensione con il tuo intelletto, con la tua testa. Devi usare i quattro punti, i quattro legami. Usando questi quattro legami, tu apri te stesso per la vera concessione. Concezione. Non combattere, non pensare di aver già capito. Non c'è comprensione. Questo è solo l'inizio. Stiamo solo parlando dell'attributo dell'universo. In noi sono più qualità di cui siamo consapevoli, ma esse sono come un embrione profondo dentro di noi. Sei al primo inizio del tuo viaggio spirituale. Prima ogni cosa era intero, perfetto. C'era solo il riempimento con la luce. Questo noi lo chiamiamo con il nome l'uno e unica forza, la sua essenza. Poi ci fu il prossimo passo. Nella sua mente venne il pensiero di creare le creature. Te lo dico in un linguaggio che ognuno di noi può capire. Perché egli ha fatto questo non è saputo. Cosa era prima la creazione nessuno di noi lo sa. Non possiamo parlare di questa fase preliminare della creazione. Se lo facciamo, diventa speculazione, non conoscenza. E nella Kabbalah parliamo solo delle cose che noi sappiamo. La conoscenza è qualcosa che tu conosci con la via di questi quattro legami. La conoscenza solo con la tua testa non è l'immagine completa. All'inizio era solo interezza e unità assoluta e non breve. Poi ci fu il pensiero in lui per creare la creazione. Lui è misericordia, amorevole benignità. Lui vuole dare, era ed è il suo desiderio, che ci fosse qualcosa che dovrebbe far sapere dei suoi attributi riguardo i suoi nomi. Egli voleva svegliarlo, creare qualcuno che dovrebbe sperimentare i suoi attributi, i suoi nomi. Perciò egli ci ha creati per diventare consapevoli di lui. Cosa significa questo, i suoi nomi? Tutti i suoi nomi sono collegati con i suoi attributi. Nome significa una particolare forza connessa con quel particolare nome. La lingua ebraica è il linguaggio del creatore. È l'unica lingua che ha ancora la connessione con la sua forza. I punti di forza sono nelle lettere aperte e chiuse. In ogni lettera ebraica è tangibile la sua forza, anche se in codice, ma è ancora un progetto di esistenza. Il linguaggio parlato è umano. Ogni cosa che leggiamo nella Torah, cosa leggiamo è un primitivo modo di spiegare in modo che noi esseri inferiori potessimo capire un po' ma è tutto circa i nomi del Creatore. Tutte le lettere della Torah sono nomi del Creatore. Anche tutte le parole della Torah sono nomi del Creatore. Puoi vedere loro come le forze riflettenti dell'universo. È la nostra generazione che è arrivata al livello più alto. Loro hanno un sentimento sperimentano la forza sottile all'interno delle lettere. Ogni verso scritto nello Zohar dà forza. Tutti i cinque libri di Mosè nell'ebraico, essi sono tutti riguardo la sua forza, e tu puoi sperimentare il suo splendore attraverso quello che leggi. Mentre sei seduto a casa, e nessun'altra lo nota, sei tu che tiri dall'alto verso il basso, sei tu che tiri la forza, alta è molto sottile al nostro mondo e allo stesso tempo sarà sparsa fuori sopra la terra. Prima c'era perfezione e poi la sua essenza aveva pensato di creare il mondo. Ma come può uno creare qualcosa che è già perfetto? Sarà lo stesso come era prima. Quindi, egli ha dovuto creare qualcosa di diverso, qualcosa che non era affatto perfetto. È per questo che egli ha tirato fuori lui da se stesso. Ritirare se stesso dal punto centrale della creazione è il punto più profondo, è la terra. E non per caso l'uomo vive qui. L'essere umano è il solo a vivere qui. Naturalmente ci sono altre forze, ma l'uomo è solo qui. Ogni cosa che è fatta appartiene alla sua forza. È solo dal punto centrale il Creatore si era ritirato egli stesso. Disegna per te un cerchio. Vedi come è perfetto un cerchio. Puoi confrontarlo questo con le Ein Sof. La forza, una forza senza fine, infinito, è luce senza fine. Che è il significato di Ein Sof? Era il suo desiderio di tirarsi indietro da se stesso, ritirare se stesso, e con questo modo di recedere, è diventato un posto vuoto, vuoto, vuoto assoluto. Può uno immaginare cos'è il vuoto? Puoi tu immaginare qualcosa completamente vuoto senza una scintilla di luce? L'unico metodo per provare questo è immaginare l'oscurità. Il suo luogo vuoto è il luogo di oscurità, mancanza. Prima c'era l'interezza e poi il vuoto e mancanza. Quando lo fai per la prima volta, tu non puoi sentire nulla. Questo è perché tu vuoi capire, ma attraverso la comprensione non arriverai. Devi sentirlo, tu lo devi sperimentare. Il problema è che l'uomo occidentale pensa con la testa. Ogni cosa è nella sua testa. Il cuore è il lato interiore dell'essere esterno, e con questo organo noi non possiamo raggiungere il nostro vero Kilim, perché non è il vero organo di osservazione. Quando si ha il pensiero, ma io conosco già il creatore, cosa stai facendo qui? Sei qui perché non conosci ancora il creatore. In un certo senso l'uomo orientale è molto più vicino al creatore, quindi lo siamo, almeno considerando il suo cuore, non con la sua testa. Con la sua testa egli è lontano dal creatore. Vedi il contrario? L'uomo occidentale è più vicino al creatore con la sua testa, e l'uomo orientale è più vicino a lui con suo cuore. È così com'è. Ogni cosa è buona. Mentre impari la Kabbalah, tu verrai all'unità, perché solo quando hai raggiunto l'unità puoi avvicinarti alla realtà. Perciò la Kabbalah unisce. Ogni cosa diventa unito dall'alto. Solo quando rimaniamo in basso vediamo tutte le differenze. Nell'alto c'è solo unicità. E questa unità e questa diversità era il suo intero piano, il suo desiderio. Quando guardiamo la religione, e questo può essere il cristianesimo, la religione musulmana o ebraica, loro ci dicono che nell'ultimo giorno noi veniamo alla luce, al Creatore. Ma non noi. Io non ti dico di venire in unità con la tua religione, ma venire in unità con il Creatore. Ognuno di noi ha l'obbligo di gustare il Creatore da se stesso. Tutte le religioni, tutti credono che solo loro ti portano nel lato interno del tuo lato esterno. Sono seduti nella storia. La Kabbalah ci insegna gli attributi del Creatore. La religione ti dice di essere misericordioso, essere buono, ma come venire in accordo con i suoi attributi? Loro non lo dicono. Qual è lo strumento? Come faccio a venire in accordo con le sue qualità? Tramite l'istruzione dei quattro comandamenti, non per mezzo di alcuna religione o qualsiasi cosa tu credi di avere. Troverai le tue risposte qui nella Kabbalah. Qui vedrai la direzione che devi seguire. Lo splendore verrà a voi e inizierete a sentirlo. Quindi l'atto che il Creatore aveva fatto era il ritirarsi, e di conseguenza in questo punto lì era il posto per la creazione. Questo è il posto vuoto, il posto della mancanza, e in questo posto egli creò tutti i mondi. Questa fu la sua prima azione, la creazione del luogo vuoto per mezzo del suo ritiro dal punto centrale. Così ora c'era un posto vuoto per la creazione. Qual fu il suo prossimo passo? Cosa è stato creato? Egli creò limitazione, restrizione. Cosa c'è all'interno di questa limitazione? C'è solo un modo per imparare la luce, imparando l'opposto, e l'opposto della luce è l'oscurità, il vuoto. E attraverso questo sembra che esistano due cose. La luce è perfezione, la luce è anche oscurità. Entrambi sono necessari per conoscere la luce e di conseguenza la creazione stessa fa il lavoro per venire in accordo con la luce. Devi sapere che ogni cosa è piena di luce. La mancanza è solo un'osservazione della tua consapevolezza. Colui che sperimenta il creatore, egli che accetta l'esistenza del creatore, ha iniziato a essere un vero uomo. L'essere umano, tutte le relazioni umane iniziano con il riconoscimento del creatore. Puoi vedere questo come il meno rispetto al più, buio rispetto al vuoto, buono rispetto al cattivo. L'integrità è buona, male significa che è ancora buio. L'integrità che è ancora dentro l'Ein Sof non è ancora raggiunta. Dobbiamo fare lo stesso come lui ha fatto. Creare il vuoto per sperimentare la luce. Quando sei felice, tu non vedi la luce. Solo quando senti il vuoto, tu inizi a sentire la luce. Quando sei nel vuoto, che i tuoi kilim saranno rilevati nel tuo interiore. Solo quando hai il vuoto c'è il posto per la nascita dei kilim. E i kilim sono antenne per ricevere la luce. Solo allora la creazione può essere spiegata. E abbiamo bisogno di questo processo da svolgere per arrivare alla nostra realizzazione. Impareremo ogni cosa perché non c'è scomparsa. Questo è uno dei principi. Non c'è scomparsa nello spirituale. Quando inizi a ricordare questo, ti rendi ricevibile per le gocce di luce che arriveranno a te. Fede e credere sono punti di forza necessari per parlare nel nostro linguaggio terreno. Credere oltre la conoscenza, credere oltre la comprensione, ciò che stiamo facendo è andare direttamente nello spirituale, non magia, ma diventare veramente ricchi. E questo è qualcosa che una persona religiosa non può capire. Attraverso la Kabbalah arrivi alla comprensione che i tuoi attributi devono essere in accordo con gli attributi del Creatore, altrimenti non puoi conoscerlo, capire Lui. Lascia che la sua forza risplenda su di te. Egli ti ha dato una finestra, e questa finestra è anche presente in Lui. Ricorda, il suo splendore era, e sempre sarà la. Sei tu che devi essere preparato a lasciar passare il suo splendore. Più tu vieni in conformità con la luce, più crederai oltre la sua comprensione. Ma il tuo primo passo è credere in questo. Questo è l'inizio della tua fede oltre la comprensione. E di conseguenza riceverai una forza in più. Lui ti inonderà con la luce. Non perché è il suo desiderio, ma perché lo hai a lungo desiderato. Quindi il primo atto fu di ritirare egli stesso dalla luce. Dal punto centrale così, ora c'è uno spazio vuoto e all'interno di questo spazio non c'è assolutamente niente di buono. Questo è quello quando io dico che non c'è bene nell'uomo intrinseco. Che non c'è bene nell'uomo intrinseco. C'era e non è mai buono nell'uomo. Quando senti qualcuno che parla di quanto è buono l'uomo, da ora uno sa che questo è il linguaggio di un bambino. C'era e non ci sarà mai bene nell'uomo, perché il bene, cioè ciò che era nelle competenze, si era ritirato dal punto centrale all'inizio. Hai compreso? C'è solo vacuità, vuoto totale. Il creatore si era ritirato da se stesso per dare a noi spazio, per darci la libertà. Egli fece questo, così ora c'era la possibilità per l'esistenza, per lo sviluppo. Prova a visualizzare questo. Qualcosa è pieno di luce e poi improvvisamente la luce è sparita. Visualizza quello spazio, uno spazio vuoto, così ora puoi dare un'occhiata di cosa il creatore aveva fatto. E in questo possiamo vedere il prossimo passo. Puoi confrontarlo con una scala. Una volta che sai come funziona qualcosa, tu puoi indipendentemente salire dal basso verso l'alto. La Torah ci parla della creazione e anche la Torah ci sta dicendo che sono passati 5.000 anni. Non una singola parola riguardo a cosa era accaduto prima. La Torah parla solo come il Creatore voleva manifestare se stesso alla creazione. Sono passate molte generazioni prima che qualcuno potesse ricevere la luce. Certamente gli esseri che vivevano durante l'epoca del Mammut ricevettero la luce. Ogni creatura aveva ricevuto luce. L'uomo nacque mentre la creazione esisteva già. Il mondo materiale è creato con tutti i tipi di strati, dal più spesso al più sottile mondo. Il sottile è il più lontano per noi. Lo spirituale è un mondo sottilissimo, ma tutto ciò che è davanti allo spirituale è materiale. Non possiamo mai raggiungere questo mondo con qualcosa di materiale. L'uomo può svilupparsi, ma tutto lo sviluppo materiale non lo aiuterà a raggiungere lo spirituale. È impossibile raggiungere lo spirituale con qualcosa di materiale. Solo quando ti sviluppi spiritualmente, tramite i quattro comandamenti, solo allora puoi venire alla pienezza, alla realizzazione. C'è l'Ein Sof, e ciò che è all'esterno dell'Ein Sof è già materiale. Dobbiamo stare qui. Ein Sof è la luce infinita. È solo infinito, e non possiamo parlare di esso. Non solo non si può, ma è anche vietato per l'uomo di parlare di esso. Ci sono stati grandi cabalisti, essi avevano sperimentato le alte sfere. E anche noi, uomini inferiori, dobbiamo venire all'esperienza di queste sfere. Dobbiamo lavorare, possiamo arrivare ai margini della creazione. Non più lontano perché puoi vedere questo come il punto zero. Per arrivare a questo punto tu devi diventare come zero. Non c'è materiale nello spirituale. È solo per l'essere umano è dato di sperimentare questo. C'è un detto: con la tua carne mi vedrai. Il creatore è solo dato all'uomo di venire all'esperienza della sua grandezza per mezzo dei nostri cinque sensi.